Gli ho detto, è dura lotta, lascia pure la speranza. Entra tu nel vivo della guerra e al segnale spara. Infittire i colpi conta, non mirare, non importa chi far fuoco, ma sparare e così togliersi di dosso la paura di morire.